cerchi la solitudine. A volte un'amica è come un cerotto su una ferita. Per chi non si rialzerà più, perché il dolore schiaccia, il dolore butta giù. E per chi crede che no, sopportarsi a vivere insieme non si può, e non vuole provarci più, ed è per questo che anche se il finale non ce l'ho, comunque il nostro libro lo scriverò. E perché tu sei la mia lente con cui guardo nel futuro per capire dove andrei. E perché tu sei il soggetto su cui questo libro scriverei, o meglio scriveremo io e te. Perché ha dimenticato che ci ha creduto, sì, comunque in fondo ancora ci crede un po'. Per chi non si scoprirà più, perché il dolore schiaccia, il dolore butta giù. E per chi non crede che si può, perché un uomo non è solo ciò che è stato, ma anche ciò che potrebbe essere. Ed è per questo che anche se il finale non ce l'ho, comunque questo libro lo scriverò. E perché tu sei la mia lente con cui guardo nel futuro per capire dove andrei. E perché tu sei il soggetto su cui questo libro scriverei, o meglio scriveremo io e te. Guardo nel futuro per capire.